State ascoltando Radio Isvara. Radio Isvara vi invita all'ascolto di Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Hare Krishna a tutti. Il mio primo incontro col Hare Krishna, col movimento Hare Krishna, è stato avvenuto nel 1974, diciamo poco prima che Srila Prabhupada arrivasse a Roma, in Italia. Io cercavo una soluzione ai problemi della vita, ragazzo giovane, 24 anni, però avevo fatto un po' tutte le esperienze necessarie per capire se veramente lo scopo della vita era uno sviluppo economico, raggiungere un successo materiale, però mi sono reso conto che non era così, per cui ero interessato alla verità, alla filosofia, alla filosofia superiore, alla verità. Quindi ho seguito diversi gruppi religiosi, seguito a distanza, però mi informavo sui loro insegnamenti. Finché un giorno invece sono venuto a contatto con i devoti, con coloro che hanno frequentato via Mistretta a Roma per un po' di tempo, e così mi sono rimasto attratto alla coscienza di Krishna, solamente al nome di Krishna. Solo sentire il nome di Krishna mi ha veramente, qualcosa è successo dentro di me, l'ho sentito un nome familiare, e quindi va bene, mi sono proposto di andare a via Mistretta, benché io abitavo non lontano, San Giovanni Laterano, no? La strada che tra il Colosseo va a San Giovanni, no? Si chiama San Giovanni Laterano. Io abitavo lì al 122, in un palazzo vecchio, l'ultimo piano, in una mansarda. E ospitavo due giovani con me, due ragazzi, i quali sono uniti al movimento Hare Krishna per 2 mesi, nel mese di marzo-aprile. E tornato, incontratoli per la strada, appunto mi hanno detto siamo stati, sai, dagli Hare Krishna, sai, è stato molto bello, sai, no? Allora mi ha interessato, mi ha incuriosito. Sono andato nel marzo, sempre nel marzo del 74, poco prima che Prabhupada arrivasse, sono andato a Via Mistretta, Piazza Lodi, e conosco bene Piazza Lodi, però gira, gira, gira, gira, gira, che ti dici, non riuscivo a trovare questa via, perché in fondo era una via molto piccola, no? E ho anche domandato, ma nessuno mi ha saputo, no, rispondere. Insomma, vabbè, sono tornato dopo per ore e ore girato, frustrato, sono tornato indietro, ho detto, beh, Hare Krishna, pazienza, no? E niente, decisi di lasciar perdere. E così tornai a casa e cominciai a meditare su andare all'estero, no? Cioè, ero un hippie, per cui l'idea di viaggiare mi piaceva, ero diciamo attratto, ho una vita così dice, libera e quindi anche io ero libero, vivevo da solo, non avevo nessun diciamo impegno di nessun genere. Così decisi dopo una settimana andai alla stazione di Roma a fare un biglietto di treno per andare a Copenaghen. Va bene, mi avvicino alla stazione, incontro una ragazza, una ragazza, che poi sono venuto a conoscere che era Boghini, un'inglese alta, aveva un vestito verde, un sari indiano verde, che era molto, diciamo, sorridente, entusiasta. Mi ha fermato e mi ha chiesto di comprare un ritorno a Krishna, una rivista. L'ho comprata, le ho dato 200 lire di offerte, non erano tante, però a quei tempi 200 lire valeva, il costo era valido, insomma, 200 lire. E ho preso questa rivista, ho salutato, e ho preso questa rivista e sono andato a fare il biglietto. Mentre vado a fare il biglietto alla stazione, vedo così tanti cartelli pubblicitari di piccola misura. Appunto, così dicevano che stava arrivando Prabhupada, che era il fondatore del movimento Hare Krishna a Roma il 19 maggio, e alla, sì, ah no, c'era un incontro al 19 maggio, forse il 19 maggio, adesso non mi ricordo bene, all'hotel a Borghese, a Villa Borghese, l'hotel Parco dei Principi. E bene, allora mi entusiasmava la cosa, no? Però quel periodo erano appena finite le lezioni, no? C'era un problema in Italia, sa, se bisognava votare per l'aborto o meno, c'erano così tanti, diciamo, cartelli che dicono sì, no, no, sì, non si capiva niente, se sì o no, bisognava votare. Non so. Però tutti questi cartelli erano coperti completamente da queste locandine in cui c'era Prabhupada che arrivava, che predicava a questo hotel, Parco dei Principi, Villa Borghese, e era attratto alla figura di Prabhupada, un bel sorriso, sai, mi attraeva la persona, no? Però non so, forse l'entusiasmo l'avevo un po' perso perché ormai la mente era decisa di andare a Copenaghen, no? In un posto che si chiamava Cristiania, no? E vabbè, insomma, faccio questo biglietto, no? Faccio questo biglietto, partenza penso che sia stata il 24, 26 dello stesso mese, di maggio, 74, e beh, prendo questo treno e sul treno incontro di devoti. Per acquistare i libri esclusivi di Manonath Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. Io sempre sulla trasmigrazione dell'anima, cioè quando passa da un corpo all'altro, e prima di raggiungere la forma umana, ci sono delle forme particolari oppure da qualsiasi forma animale può raggiungere quella umana? Normalmente c'è una scala evolutiva da forme inferiori a forme superiori, questa è la regola, però come ogni regola in qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa si discuta, c'è sempre l'eccezione. Normalmente si va da lì, c'è una scala evolutiva e poi si arriva a quella umana. Srila Prabhupada diceva che c'erano tre forme viventi che erano abbastanza vicine a quella, alla forma umana, e l'anima spirituale accedeva alla forma umana da una di queste tre forme che avevano caratteristiche naturali che vengono chiamate virtuose, passionevoli o ignoranti, e cioè presi da una forma, da un modo di essere gioioso e pulito, pulito nel senso psicologico, da una forma di vita piena di desideri brucianti di fare cose, di godere delle cose materiali, oppure da una forma di vita piuttosto, piuttosto sofferente, piuttosto intossicata, piuttosto sporca, così. Queste tre forme sono la forma della mucca, del leone e della scimmia, in accordo alle scritture, rispettivamente sattva guna, raggio guna e tamo guna. Quella sporca e intossicata, la scimmia? Sì. Qual è quella? Allora, per quale motivo un'anima spirituale entra in una di queste tre? In fin dei conti non produce karma durante la scala evolutiva, perché il karma, ovvero sia le reazioni doverose alle azioni che tu fai, si producono solo nella forma umana. Gli animali non producono karma. Perché questo? Questo è il risultato e lo stampo che tu hai avuto nell'ultima forma umana che tu hai avuto. Te la porti appresso per tutta la scala evolutiva degli animali, e in accordo a questo stampo fondamentale di sattvico, rajasico o tamasico, tu prendi una di queste tre forme, dopodiché tornerai in una forma umana, anche quella condizionata da uno di queste tre influenze o modi della natura materiale. Scusa, però, ma come fanno allora gli animali? Proprio tu dimentichi. Come fanno allora gli animali? Proprio tu dimentichi il microfono. No, io... Dicevo, come fanno gli animali ad evolvere allora, se non hanno karma? Evolvono automaticamente, non evolvono a causa delle azioni che compiono, ma questa evoluzione avviene automaticamente a causa della natura materiale. Lasci il corpo da un certo animale e vai automaticamente nella forma superiore. Ci sono 8 milioni e 400 forme diverse di esseri viventi classificabili in questo modo. Poi vari saggi nelle scritture hanno notato che danno differenti numerazioni, ma non importa quanti sono classificazioni, per cui un saggio magari può classificare due forme viventi. Scusate, oggi non sto molto bene fisicamente, sono 2-3 giorni, quindi qualcuno può vedere due forme viventi che un tale saggio ha classificato come due, un altro può pensare che siano uno, siano quattro, siano 10. Paracharamuni da diversi numeri, e Anghiramuni da diversi numeri, però fondamentalmente, in accordo al nostro maestro spirituale Srila Prabhupada, lui ha dato 8.400.000 forme viventi di vita, di cui 400.000 soltanto sono umane, e di quelle 400.000 pochissime in realtà sono veramente civilizzate. Civilizzate si intende con un tipo di vita che permetta loro un approccio alla vita spirituale, perché l'approccio alla vita spirituale è facilitato da certi tipi di vita. Certo, se fai vite proprio a contatto continuo e costante con ogni tipo di attività peccaminosa, è chiaro che questo la purezza, la fortuna, il desiderio di fare vita spirituale non viene. Sono altre domande? Fatemi altre domande, no, io non lo so fare, sei 1800 però. No, no, porto io. Se qualcuno ha qualche domanda, porto io il microfono. Penso tu. Si sente anche da distanza qualcosa. E questa distanza si sente sì. Perfettamente. Sì. No, no, io ne avrei tantissime domande. Del resto ci aspetta la cucina di Sanata. Vabbè, poi possiamo continuare a parlare anche mentre io sono qui. Prendiamo passato. Bene. Mettiamo pausa. Bene, allora grazie. Spingo grazie. Adesso. Grazie. Grazie. Avete ascoltato? Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. State ascoltando Radio Isvara. Guadagna denaro. Per andare giù. Non sta. Ah, ok. Muovendo. Adesso si è fermato però. Togli quella X lì, magari c'è qualcosa. Cosa devi cliccare lì sopra? Aspetta, forse centro la incunta di cliccare qua, non lo so, conferma, cos'è? Ah no, ma come mai? Sai che siamo online. Ecco, sì, infatti si può. Però per andare su Zoom forse dovevi. Scusate, qua non sappiamo come andare su. Sì, stanno cercando di tornare su Zoom. Sappiamo che siamo Facebook, ma eravamo in Zoom. Su Zoom forse arrivò Cristina. Okay. Non sentivo. Però non riusciamo ad andare su Zoom. Non siamo su Zoom adesso? Sì, però noi non ti vediamo, ti vedo dal cellulare. Ah, aspetta, guardo se c'è qualcosa. L'altra volta mi aveva detto Daniele di attivare un comando che però non mi ricordo più qual era. Condividi schermo forse. Come ti chiamo Daniele, vediamo se mi risponde. Perché dice l'ospite ha disabilitato la condivisione dello schermo. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi vedi? Bravi! Siete bravissimi, io non lo so come avete fatto. Ah, ecco, è vero, quella lignettina lì era facilissima, ma sai quando sembrano altri, altro che... Figurati, adesso vedo di silenziare il mio microfono, eh? Ok, intanto ti saluto. Adesso vediamo solo tu. No, vediamo anche gli altri. Sì, ma vediamo. Haribol. Haribol. Haribol, come stai? Bene, voi? Siete riusciti a riattivarvi su... Ci vedete adesso su Zoom? Sì, sì, sì. Sì, in Facebook. Infatti, perché ero su Facebook, ho visto. Haribol, Erika. Haribol. Haribol. Cominciamo a cantare. Ecco, ti stavo chiamando Daniele, perché ero un po'... Ciao. Ce l'abbiamo fatta. Ricordato. Haribol. Haribol, ho fatto un po' tardi. Haribol. Hare Krishna.

arrivo. Buone che deve disattivare l'audio. Mutare. Mutare. Stasera sei, sei gialla, l'altra volta eri arancione. La luce dal sole. E questo devoto chi aspetta? Ah, ok, Hare Krishna. Arrivo Alessandra. Alessandra. Hare Krishna, Preta Prabhu, Mataji, Krishna Vokam, Mataji. Om Agyanate Marandasya Agyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Vena Tasmai Shri Ravi Nama Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagnana Raghunatam Vritantam Sajivam Sadvaitam Savadrutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kancha Negorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gavada, Shri Vatsadi Gona Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutadaya Shri Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine. Sto parlando di... Allora... Un'altra cosa che non riusciamo a capire, che dovrebbe... Dai, fa niente. Deve essere solo quello che parla. So, stasera continuiamo la lettura del libro di Krishna. Siamo in mezzo, immersi nella storia di del gioiello che si chiama Shyamantaka. Si sente bene l'audio? Perché abbiamo il microfono. Ho messo il super microfono, ma non anche con questo. Boh, forse non sappiamo usarlo, insomma, ci deve... Ma non sentite lui o non sentite neanche me? Io. Mi no, senti adesso? Forse il microfono dovete avvicinarlo a 3DAS. Beh, però in realtà questo microfono doveva essere che... Vabbè, prova a parlare adesso. Mi senti adesso? Mi sentite? Sì. Sentite? Meglio. Boh. Se no stappiamo e... Mi senti adesso? Mi sentite adesso? Forse deve venire Franco a farci capire come funziona, perché ha capito. Allora, e passeremo al prossimo capitolo, sarebbe la conclusione di questo thriller, questo dramma. Allora, Ricordiamo che siamo nella galleria, nella caverna di Jambavan, che era il grande devoto di Ramachandra, signor Ramachandra, migliaia di anni prima, ma è ancora vivo, è presente lì vicino Dwarka, e sono andate a cercare questo gioiello Shamataka che ha girato le voci che aveva preso Krishna, ma non era vero, ha preso il fratello di Satyajit. E nella porta di via è stato ucciso da un leone e il leone è stato ucciso da questa grande una specie di, come Hanuman, specie di gorilla orso. Noi era un orso, Jambavan era un orso, perché c'era che varietà, scimmie, orsi, scimmie, orsi che erano nella battaglia della Ramayana, e hanno fatto questa battaglia, lotta, perché quando Krishna è entrato in questa galleria, ha trovato il bambino di Jambavan che giocava con Gelo Shamantaka, ha cercato di prendere e ha fatto ha gridato. La servitrice ha urlato e poi è arrivato Jambavan. Ha cominciato una grande battaglia che è andata avanti per parecchi giorni. 28 giorni. 28 giorni e notte. Perché Krishna aveva voglia di combattere. E nel frattempo tutti i compagni di Krishna, assistenti che erano lì fuori dalla galleria, sono andati a casa confusi, pensando se qualcosa è successo a Krishna. Invece, cosa che volevo dire, che gli abitanti di Dwarka sono andati via confusi, dispiaciuti, però io ho pensato, mentre lo leggevo, che se fossero stati gli abitanti di Vrindavana, non avrebbero esitato ad entrare dentro la galleria e salvare Krishna. E cercare Krishna. Perché loro avrebbero dato la vita, invece gli abitanti di Dwarka erano sempre dei grandi devoti, però hanno preferito tornare a casa piuttosto che avevano paura ad entrare, mentre le gopi non avrebbero esitato ad entrare. Ecco. Queste le visioni esoteriche di Krishna. O magari una speculazione, però a me non si mette questa. Le spiegazioni sulle spiegazioni. Allora, siamo a pagine 28, ci sono ancora due pagine e mezza di questo capitolo, e Jambavan sta parlando, ha finito la lotta e Jambavan ha realizzato, quando era stancato, ha realizzato, ma questo solo mio signore Ramachandra potrebbe vincere contro di me, sono più forte del mondo. Jambavan continuò, «O Signore, anche il tempo che riunisci tutti gli elementi fisici è il tuo rappresentante. Tu sei il tempo supremo in cui ogni creazione vede la luce, è mantenuta e infine è distrutta. Non solo il tempo fa parte di te, ma anche gli elementi fisici e le persone che li manipolano. L'essere vivente non ha dunque alcuna indipendenza nella sua creazione. Studiando gli elementi nella loro giusta prospettiva, tutti possono vedere che tu sei il Maestro Supremo, il Signore di tutto ciò che esiste». Sto offrendo il suo preghiera, che ha realizzato che è lo stesso suo Signore Ramachandra, che non c'è differenza. «Caro Signore, ora riesco a capire che tu sei colui che io adoro col nome di Sri Ramachandra. Quando il mio Signore vuole costruire un ponte sull'oceano, io vidi coi miei occhi l'acqua che si gonfiava e si agitava semplicemente per un suo sguardo su di essa. Tutto l'oceano e anche gli esseri più giganteschi, la balena, gli alligatori e i pesci timinghila, il pesce, avete mai sentito la timinghila? Non c'è. È in grado di inguaiare una balena. Inguaiare una balena. Se volete speculare sul triangolo Bermuda, tutte le navi che spariscono, potrebbe essere questo. È una delle specie di vita sotto acqua. Sì, insieme che sono qualcosa come 900.000 specie di vita di pesce. E una di queste è la timinghila. Magari estinto, magari presente in altri pianeti, o magari in fondo dell'oceano. Pesci timinghila può inghiottire in un boccone grandi esseri acquatici come la balena. Ne furono scossi tanto che l'oceano fu costretto a offrire a Ramachandra un passaggio fino all'isola di Lanka. Ancora oggi tutti conoscono la storia di questo ponte che andava da Capo Comorin a Sri Lanka, hanno visto dalle satelliti, ultimamente, proprio una traccia, una specie di ponte che passa dall'India fino a Sri Lanka, sotto l'acqua, che si vede ancora dall'oceano. E chi non sa che l'intero regno di Ravana fu devastato dal fuoco? Nella tua forma di Sri Ramchandra, io ti ho visto combattere contro Ravana. Ogni parte del suo corpo fu tagliata e fatta a pezzi dalle tue frecce aguzze, e la sua testa cadde sulla faccia della terra. Ora so che tu non sei altri che il mio signore Sri Ramchandra. Nessun altro possiede questa smisurata potenza, nessun altro avrebbe potuto sconfiggermi in questo modo. Vedi che avere una realizzazione spirituale attraverso la lotta. Anche questo è un altro tipo di servizio, che quando Krishna vuole lottare, qualche devoto suo entra in questo mondo materiale e poi si combatte amichevolmente. Mi piace i re, ogni tanto un re deve trovare qualcuno con cui si chiama sparring in inglese, non so in italiano, combattere ma non per combattere per piacere. Soddisfatto dalle preghiere e dalle lodi di Jambavan, Sri Krishna passò sul suo corpo il palmo della sua mano di lotto per alleviare i dolori che l'affliggevano. E subito Jambavan sentì svanire tutta la fatica di quel lungo combattimento. Poi Krishna gli rivelò in tutta franchezza il motivo della sua venuta e nel rivolgersi a lui lo chiamò Re Jambavan, perché era lui che regnava sulla foresta e non il leone che egli aveva ucciso senza armi a mani nude. Re Jambavan gli disse: sono venuto a chiederti il gioiello Siamantaka, perché da quando è stato rubato gli uomini di poca intelligenza stanno diffamando il mio nome. Jambavan capì subito e per soddisfare il Signore non solo gli consegnò il gioiello Siamantaka, ma fece anche venire il suo figlio Jambavati, che era in età da marito, e gliele offrì. Questa seconda moglie di Krishna, Jambavati. Domanda. Ma se Jambavan era un orso, come faceva avere una figlia bella di Krishna? Krishna, quali erano domande che non sono in grado di rispondere. Ma che loro... E come mai se Jambavan era la forma di orso, come è possibile che abbia avuto una figlia bella che diventa regina di Krishna? Si trasformano come i demoni, sono tante storie di questi asura che cambiavano forma. Ricordiamo di Putana, la strega, che era una strega proprio brutta, ma quando voleva avvicinare per cercare di uccidere, Krishna si è preso la forma di una bella donna. Così pensa anche che queste personalità sono in grado di cambiare forma. Era in grado di cambiare forma. Le nozze di Jambavati con Krishna e la consegna del gioiello Siamataka ebbero luogo nella dimora di Jambavan. Erano ormai passati 28 giorni da quando la lotta era cominciata. I cittadini di Dwarka, dopo aver atteso fuori nella galleria per 12 giorni, conclusero che doveva essere accaduto qualcosa. Perciò, stanchi e sconsolati, fecero ritorno in città. Infatti, come spiegava Krishna Loka, i residenti di Vrindavan non avevano mai lasciato. Come quando Krishna è stato preso da Kaliya, il serpente, tutti residenti di Vrindavan erano lì fuori sulle rive del fiume, volevano entrare, cercare di salvare Krishna Balaram, che sapeva la storia, sapeva chi era Krishna, l'hanno fermato, ma il loro sentimento era di buttarsi e sacrificare le vite per salvare Krishna. Avranno fatto sicuramente le stesse cose in questa situazione. Perché solo i residenti di Vrindavan hanno proprio nessuna considerazione del loro benessere o loro pensa solo come dare piacere a Krishna. Non ha nessun altro pensiero, nessun altro. Ogni loro pensiero e azione, tutto per dare piacere a Krishna. Se dai piacere a Krishna che loro stanno male, preferiscono stare male. E non ha nessun interesse separato da Krishna, questo modo. I componenti della famiglia, specialmente la madre di Krishna, Devaki, suo padre Vasudev, la sua prima sposa Rukmini, e gli amici, i parenti e gli abitanti del palazzo sprofondarono tutti in un più grande dolore quando videro tornare i cittadini e Krishna non era con loro. Il naturale affetto che sentivano per il Signore li spingeva a insultare i Satrajit. Era stato lui la causa della scomparsa di Krishna. Tutti insieme andarono a rendere culto alla dea Chandrabhaga, implorandolo di far ritornare Krishna. E la dea, soddisfatta, immediatamente li benedì. Krishna apparve proprio in quel momento, accompagnato dalla sua nuova sposa, Jambavati, e tutti gli abitanti di Dwarka e i parenti di Krishna esultarono dalla gioia. Come chi vede tornare dal regno della morte un caro parente. E loro che avevano creduto che Krishna si fosse trovato in difficoltà e che avevano quasi perso ogni speranza di rivederlo. Per festeggiare la presenza di Krishna e per accogliere la sua nuova sposa, Jambavati, organizzarono subito un'altra celebrazione. Il re Ugrasena convocò tutti i re, i capi più importanti, tra cui anche Satrajit. Davanti a tutta l'assemblea, Krishna raccontò come aveva ritrovato il gioiello nelle dimore di Jambavan. Quindi volle restituirlo a Satrajit. Ma il re, che aveva ingiustamente diffamato il Signore, si sentì morire dalla vergogna. Accettò tuttavia il gioiello e rimase là col capo chino in silenzio, davanti all'assemblea dei re, col gioiello tra le mani. Sai che vergogna. Che praticamente ricordiamo che lui è sparso la voce che è stato Krishna a rubare perché lui non aveva dato al re come Krishna voleva, così lui ha sparso la voce senza nessuna prova. E adesso Krishna ha mostrato che non è stato lui, ma è stato questo suo fratello Prasena. Poi se ne tornò a casa dove meditò sul modo di purificarsi dall'atto abominevole di aver diffamato Krishna. Sapeva di aver commesso un'offesa gravissima e sapeva che doveva trovare un rimedio per riguadagnare la stima del Signore. Il re Satrajit non vedeva l'ora di liberarsi dall'angoscia che lo tormentava e che stupidamente lui stesso aveva provocato col suo attaccamento a un oggetto materiale. Lo siamo intatto, ci rende sempre infelice. L'attaccamento a cose materiali dopo porta sempre sofferenza, è garantito. Era sinceramente pentito delle offese commesse verso Krishna e voleva davvero porvi rimedio. Allora Krishna dall'interno diede l'intelligenza necessaria a Satrajit, che decise di offrire a Krishna non solo il gioiello, ma anche la sua meravigliosa figlia Satyabhama in sposa. Aveva forse altra scelta? Cominciò quindi i preparativi per una degna celebrazione. Satyabhama era così bella e virtuosa che Satyajit l'aveva fin allora rifiutata a numerosi principi, in attesa di una pretendente degno di lei. Infine, per la grazia di Krishna, il re decise di offrirla a lui. Questi sono tutti i passatempi, perché sono tutti eterni servitrici di Krishna, eterni regine di Krishna, eternamente. Solo il passatempo di sposarli e tutto per aumentare i passatempi, le racconti di loro relazioni. Così possiamo ascoltare di questi passatempi, ma in realtà sono già eternamente legati. Soddisfatto di Satyajit, il Signore gli disse che non aveva alcun bisogno del gioiello Siamantata. È meglio lasciarlo nel tempio dove lo tenevi prima, in modo che tutti possano trarne beneficio. La presenza del gioiello a Dwarka proteggerà d'ora in poi la città dalla carestia, dai danni dell'epidemia. Dobbiamo, ecco, cercare. Dobbiamo cercare questo gioiello. Lo mettiamo a delle bendane. Accendo qui. Dal caldo e dal freddo eccessivi. Cioè, non troppo caldo, non troppo freddo. Niente epidemia, niente carestia. Sarebbe bello trovare questo gioiello. Gioiello, se meditiamo su questo passatempo di Krishna e il suo gioiello, raggiunge lo stesso beneficio. Allora, capitolo 56, la morte di Satyajit e Shatadanda. Non è finita la storia. Taglio di Krishna, sa? Avventura che continua. Deve quello vicino a lui. Si fa? Ho distrattito l'audio. Divertiva, devo dire. No, non succede. Arrivò Salvatore. Sei giusto in tempo per la parte più drammatica della storia. La morte di Satyajit e Shatadamba. Durante il suo soggiorno ad Hastinapur, Akura aveva potuto rendersi conto delle condizioni in cui si trovavano i Pandava. E dopo che ebbe informato Sri Krishna, gli avvenimenti presero una nuova piega. I Pandava furono alloggiati in una casa di lacco. Qui stiamo raccontando un'altra cosa. Ricordiamo che Akura, zio di Krishna, è stato mandato a Hastinapur, dove c'era lì figli di Pandava, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, era sotto il dominio di Dhritarashtra e delle donne e fratelli, e lui doveva studiare tutte le intrighi, tutte le situazioni attuali dei Pandava. È tornato da Krishna a raccontare, c'è tutto un capitolo che avevo già letto della sua visita a Hastinapur. Cosa hai scoperto? Parla forte. Quando leggi parli forte, poi quando... I Pandava furono alloggiati in una casa di Lak, e quando in seguito questa fu incendiata, tutti li credettero morti insieme con la loro madre Kunti. Questa voce giunse anche agli orecchi di Krishna e Balaram, che dopo essersi consultati decisero di andare a Hastinapur per portare aiuto e conforto ai parenti. Naturalmente sapevano che i Pandava non potevano essere morti tra le fiamme, ma vollero ugualmente partecipare al lutto. Appena arrivati andarono da Bhishma Deva, il capo della dinastia Kuru, poi fecero visita a Vidura, Gandhari e Drona. Questo è tutto il Mahabharata. Chi conosce, chi ha studiato, chi legge, letto, ha visto il film Mahabharata, può conoscere queste personalità, tutta la storia. All'interno della dinastia Kuru c'erano alcuni che desideravano da lungo tempo la morte dei Pandava e della loro madre, perciò non mostrarono segni di tristezza. Altri, al contrario, erano profondamente addolorati, come Bhishma. Krishna e Balaram si unirono a quelli sinceramente addolorati, senza però rivelare la vera sorte dei Pandava. Approfittando dell'assenza di Krishna Balarama Dwarka, si stava intanto organizzando un complotto. Questo, senza Krishna, è andato via da Dwarka per fare seguire questa storia. E nel frattempo, lì a Dwarka, la storia si complica ancora di più. Si stava intanto organizzando un complotto per rubare a Sato il gioiello Santa. Vedi, quando c'è questa cosa, una ricchezza di così, questo genere, come il gioiello Santa, c'è cioè sempre invidia, lotta, uccisione, tutto per poteri perché ottenere questo gioiello significava, ricordiamo, su qualcosa come 80 kg al giorno di oro che si manifestava da questo gioiello così. Quindi, bastava un giorno per noi. Tutti dietro. E poi il capo della congiura era un certo Shatadamba. Come tanti altri, costui aveva aspirato alla mano di Satyabhama, la splendida figlia di Satyajit. Prima di offrirla a Krishna, Satyajit aveva promesso sua figlia a numerosi pretendenti. Non voleva però legare il dono del gioiello a quello di sua figlia. E Krishna, che lo sapeva, accettò Satyabhama, ma non il Samantha. Satyajit, soddisfatto, si tiene il gioiello. Quando uno c'è ricchezza, avrai dei ladri, le persone che vogliono prendere da te. Per quello, meglio non avere. Ma in assenza di Krishna e Balarama, alcuni tramarono una congiura per sottrarlo. Anche Akrura e Kritavarma, due devoti di Krishna, parteciparono al complotto, con l'intenzione però di restituire a Krishna il Samantaka. Ma lo stesso ci sono condotti, che dopo lo vedremo perché. Perché erano devoti, grandi devoti, come mai si metteva in un complotto di questo genere? Sapevano che il Signore lo desiderava e che Satyajit non glielo aveva consegnato nel modo giusto. Gli altri congiurati invece erano frustrati nel loro desiderio di ottenere la mano di Satyabhama, ognuno aveva la sua motivazione. Tanto che alcuni istigarono Shatadamba ad assassinare Satyajit per rubargli il gioiello. The plot thickens, si dice in inglese. Il complotto diventa più intenso. Verrebbe da chiedersi perché due grandi bhakta come Akrura e Kritavarma si fossero uniti alla congiuria. Non c'è dubbio che Akrura fosse un grande bhakta, affermano grandi autorità tra cui Jiva Goswami, ma gli abitanti di Vrindavan l'avevano maledetto perché aveva portato Krishna lontano da loro. Questa maledizione che è stato lui a portare via Krishna da Vrindavan. Per averli feriti nei loro sentimenti, Akrura si trovò in qualche modo costretto a unirsi a una congiura di uomini empi. E fu così anche per Kritavarma, che pur essendo un bhakta, era stato un intimo compagno di Kamsa, cattiva compagnia. Ricordiamo, cattiva compagnia ti porta lontano dal bhakti. E la contaminazione di quel contatto lo spinse alla congiura. Ti porterà a fare cose che non volevi fare, cose impie, cose pecaminose. Una notte, incoraggiato dagli altri congiurati, dai, Shatadamba penetrò nella casa di Satyajit e l'assassinò nel sonno, anche in modo proprio basso. Shatadamba era un criminale abominevole e benché avesse i giorni contati a causa dei suoi misfatti, non esitò neppure davanti a un crimine così vile. Incurante degli urli delle donne che lo avevano visto entrare nella casa, Shatadanva massacrò Satyajit senza pietà, come un macellaio scozza una bestia nel matatore. Quella notte anche Satyabhama, la sposa di Krishna, che in quel momento era lontano, Krishna era lontano, ricordiamo la schiena pure, si trovava in casa del padre. Mio caro padre, mio caro padre, gridava, ti hanno ucciso senza pietà. E subito vuole partire per raggiungere Krishna a Hastinapur. Perciò il corpo di Satyajit non fu cremato subito, ma fu conservato dentro l'olio, perché il Signore potesse vederlo al suo ritorno e potesse prendere le misure necessarie contro Satyajit. Quando Krishna fu informato di questo crimine atroce, prese a lamentarsi, proprio come un uomo comune. Ancora una volta la sua profonda tristezza può sembrarci strana se consideriamo che egli non è affatto soggetto agli atti e alle loro conseguenze, ma poiché interpretava la parte di un essere umano, non esitò a esprimere tutte le sue simpatie per il dolore di Satyabhama. E gli occhi gli si riempirono di lacrime al racconto del tragico evento. «Oh, che terribile disgrazia!» esclamò. Poi, accompagnata da Balarama e Satyabhama, riprese subito la strada verso Dwarka, deciso a uccidere Shatadanda e a riprendergli il gioiello. Benché indurito dal crimine, Shatadanda temeva molto la potenza di Krishna e l'arrivo del Signore lo gettò in un mare d'angoscia. Appena Shatadanda capì che Krishna voleva ucciderlo, andò a rifugiarsi da Kritavarma, ma questo gli disse, non potrei mai offendere Sri Krishna e Sri Balaram, perché non sono uomini comuni, ma sono Dio la persona suprema. Chi dunque dopo averli offesi potrebbe scampare alla morte? Ma ragazzi, avete stato voi a spingermi, incoraggiarmi di fare questo atto criminale. E lo stesso loro, nel loro sbaglio, ricordava che Krishna era la persona suprema, loro erano devoti, ma erano contaminati da questa, dicevamo, dalla cattiva compagnia di Kamsa e a Kuru per aver portato via Krishna da Vrindavan. E fatto soffrire i residenti di Vrindavan. Così erano, nonostante che erano devoti, erano influenzati o contaminati da queste due cose. Nessuno potrà sfuggire alla loro ira se questo è il destino. E continuo ricordando l'esempio di Kamsa, che per quanto fosse potente e assistita da numerosi asura, non poté sfuggire alla collera di Krishna. E l'esempio di Jarasandha, che fu sconfitto da Krishna 18 volte e ogni volta dovette ritirarsi avvilito dal campo di battaglia. Vedendosi rifiutare l'aiuto di Kritavarma, Shatadanda andò da Akrura, ma anche lui gli rispose, Balaram e Krishna sono il Signore Supremo in persona. Chiunque sia consapevole della loro smisurata potenza, non oserà né offenderli né schierarsi contro di loro. E aggiunse, la potenza di Krishna e Balaram è tale che semplicemente con la loro volontà essi creano l'intera manifestazione cosmica, la mantengono e la distruggono. Purtroppo però coloro che sono sfiati dall'energia illusoria sono incapaci di comprendere la potenza di Krishna, sebbene tutto l'universo materiale sia pienamente sotto il suo controllo. Egli ricordò che Krishna all'età di 7 anni aveva già sollevato la collina Govardhan e l'aveva sostenuta per 7 giorni consecutivi, come un bambino porta un piccolo ombrello. Akura fece chiaramente capire a Shatadama che egli non avrebbe mai smesso di offrire i suoi più rispettosi omaggi a Krishna, l'animo supremo di tutte le cose create, la causa originale di tutte le cause. Allora, vedendo sfumare anche la speranza di essere protetta da Akura, Shatadama riconsegnò il gioiello Shamantaka, poi in groppa a un cavallo che percorreva 650 km tutto di un fiato. Fuggì dalla città. Cavallo potentissimo. Ricordiamo che Krishna sta giocando la parte di un essere umano comune, ma con potenze extra sovrannaturali, ma per mostrare questi passatempi, per attrarre l'attenzione dei devoti sulla terra, di dare piacere ai devoti, annientare i miscredenti e ristabilire i principi religiosi. E così si svolge questi passatempi. E ricordiamo che anche gli asura che vengono uccisi da Krishna sono liberati dal mondo spirituale. Non è che è una cosa brutta, è una cosa, per loro è una cosa bella, loro pensate che erano state uccise da Krishna, nonostante che hanno fatto cose brutte, saranno liberate completamente di ogni reazione cannose, saranno liberate dal mondo materiale. Così niente da piangere, poverini. Avvertiti, Krishna e Bala montarono sul loro carro su cui sventolava lo stendardo di Garuda e si gettarono all'inseguimento. Krishna nutriva una collera particolare verso l'assassino e voleva ucciderlo a tutti i costi perché era una persona di molto inferiore alla sua vittima e perché Shatrajit era suo suocero e gli Shastri ingiungono che un Guru Druha, chiunque si ribelle a un superiore deve subire una punizione proporzionale alla gravità dell'offesa. Non c'era scampo, dunque, per l'assassino di Satyajit. Allo stremo della forza, il cavallo che fuggiasco crollò morto nei presi di un padiglione di metilla. E Shatadamba si trovò a dover correre a piedi a gran velocità. Per mostrarsi leale con lui, anche Krishna e Balaram scesero dal carro e proseguirono a piedi. Poi Krishna, afferrato il suo disco, tagliò la testa di Shatadamba. Quindi cercò tra le vesti del morto il gioiello Samataka, ma invano. Abbiamo ucciso questo uomo inutilmente, esclamò rivolto a Balaram, perché il gioiello non è su di lui. Forse l'ha affidato a qualcun altro a Dwarka. È là che devi cercarlo, suggerì Balaram. Così Krishna riprese la strada per Dwarka, mentre Shri Balaram rimase qualche giorno a Mithila per godere dell'intima amicizia che lo legava al re di quella città. Di quella città. Janak Maharaj, re di Mithila, fu molto contento di vedere Shri Balaram nella sua città e lo ricevette con grandi onori, offrendogli per il suo piacere molti oggetti preziosi. Shri Balaram rimase in quella città per molti anni come ospite d'onore. Fu allora che Duryodhana, il figlio maggiore di Dhritarashtra, approfittando dell'occasione, lo avvicinò per apprendere da lui l'arte del combattimento con la mazza. Questi sono tutti i vari dettagli che uscirà fuori nel Mahabharata e avranno significato nel futuro. Sì, perché non si spiegava come Balarama potesse avere così questo affetto per Duryodhana, che era cattivo, insomma, per spiegare in parole semplici. E infatti qui accenna che poi lui diventò suo maestro e gli insegnò l'arte di adoperare la mazza e quindi si affezionò a Duryodhana. Sì, perché era il suo studente preferito. Così era, esatto. Così quando poi combatte verso la fine del Mahabharata, quando combatte con Bhima, e poi Bhima gli spacca le gambe, giustamente, Balarama voleva uccidere Bhima perché aveva appunto questo affetto per Duryodhana. E poi interviene Krishna e chiarisce tutto. È molto interessante il Mahabharata, pieno di storie incredibili. Nel frattempo Krishna, tornato a Dwarka, informò Satyabhama che l'assassino di suo padre è morto, ma il gioiello non è stato ritrovato. Poi, secondo i principi religiosi, compì, assistita da Satyabhama, le cerimonie funebri in onore del suocero, a cui si uniscono tutti i suoi parenti e amici. Akrura e Kitavarma, che erano stati tra i principali istigatori della congiura per aver incoraggiato Shatadamba al crimine, quando seppero che Krishna era di ritorno a Dwarka, si affrettarono a lasciare la città. In assenza di Akrura, i cittadini di Dwarka si sentirono minacciati da epidemie e catastrofi naturali. Era semplici superstizioni, perché la presenza di Sri Krishna bastava da solo a proteggerli da ogni male. Si notò comunque qualche disturbo a Dwarka durante l'assenza di Akrura. Questo sentimento popolare si spiega risalendo al tempo in cui Varanasi, nella provincia di Kashi, era stato colpita da una grave siccità. Allora il re di Kashi, su consiglio di un astrologo, sposò sua figlia Gandini a sua volta. Sua figlia Gandini a Svapalka, il padre di Akrura. E subito dopo le nozze, la pioggia prese a cadere in abbondanza su tutta la provincia. Il padre di Akrura aveva poteri soprannaturali e presto si cominciò ad attribuirli anche a suo figlio. Così nacque la credenza che ovunque si trovasse Akrura o suo padre non sarebbero apparsi né carestia né siccità né alcuna altra catastrofe naturale. E un regno dove non si conoscevano queste calamità, libero dal caldo e dal freddo eccessivi, e dove la gente viveva nella felicità fisica, mentale e spirituale, era giustamente considerato fortunato. Così tutti avevano questa idea che se andate via cura porta la maledizione, sarà andrà tutto male. Invece Krishna era presente, non era un problema, ma avevano questa superstizione dovuta a quello che è successo a suo padre. Quando in una città tranquilla arriva qualche sventura, se ne ricerca la causa nella partenza di qualche personaggio di buon augurio. Così si sparse la voce che l'assenza di Akrura avrebbe portato avvenimenti spiacevoli. Alcuni anziani della città notarono che dopo la sua partenza si era manifestato qualche segno poco propizio, ma l'attribuirono all'assenza del gioiello Samantaka. Sentendo queste voci, Sri Krishna decise di far tornare Akrura nel regno di Kashi, dove aveva cercato asilo. Dal regno di Kashi. E al suo arrivo lo accolse come si fa con un superiore, essendo Akrura suo zio. Krishna è l'anima suprema nel cuore di ognuno e sa perfettamente ciò che accade in ognuno di noi. Non si può nascondere niente da Krishna. Krishna sa tutti i nostri pensieri, desideri, passato, futuro, tutto. Quello me lo abbandoniamo a Krishna e avremo una futura molto auspiciosa. Sapeva dunque tutto del complotto di Akrura e di Shatadamba. Perciò sorrise rivolgendosi ad Akrura e lo chiamò grande tra i magnanimi. Caro zio, so che Shatadamba ha lasciato a te il gioiello Samantaka. Il re Satyajit non aveva figli maschi, perciò non esistono gli eredi diretti di questo gioiello. Sua figlia Satyabhama non lo desidera, ma il figlio che porta in grembo, in quanto nipote di Satyajit, ne diverrà il legittimo erede dopo aver sottostato ai principi regolatori delle successioni ereditarie. Questo che ci sta spiegando a Krura. Sri Krishna voleva far sapere a Akrura che Satyabhama era già in attesa di un figlio e come legittimo erede del gioiello se lo sarebbe senz'altro ripreso. La potenza di questa gemma, continuò Krishna, è tale che un uomo comune non può custodirla. Conoscendo la tua grande virtù, penso che per il momento il gioiello possa rimanere nelle tue mani. ma il problema è che non sono riuscito a convincere mio fratello maggiore Shibalam che il gelo è con te. Perciò ti prego, cuore generoso, mostrami il Siamantaka in presenza di altri parenti, così tutti saranno soddisfatti. Cioè, è presente in città, così sono tutti tranquilli. Non può negare che il gelo è nelle tue mani. Si sente dire da tutti che le tue ricchezze si sono moltiplicate e che ora compi sacrifici su un altare d'oro massiccio. Chi non conosceva le virtù di quel gioiello che produceva 170 libbre d'oro, puro al giorno? Alcuni distribuiva generosamente queste quantità d'oro in occasione di sacrifici. Prova questa che il gioiello Siamantaka era nelle sue mani. Il tono dolce e amichevole di Sri Krishna convinse Akrura e ricapì come nulla poteva rimanere nascosto al Signore. E coperto con un panno il prezioso gioiello che risplendeva come il sole, lo portò davanti al Signore, che lo prese in mano e lo mostrò a tutti i parenti e gli amici presenti, restituendolo quindi ad Akrura davanti ai testimoni stessi affinché tutti sapessero che era Akrura a custodire il gioiello a Dwarka. Ascoltiamo quest'ultima frase, benedizione per tutti voi che avete ascoltato questa storia. La storia del gioiello Siamantaka è molto significativa. Nello Srimad Bhagavatam è detto che chiunque l'ascolti, la racconti o semplicemente la ricordi vera, verrà liberata da ogni diffamazione sul suo conto e dalle conseguenze dei suoi atti colpevoli e raggiungerà la perfezione della pace. Tutti felici? Contenti? Ogni diffamazione. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 56° capitolo del libro di Krishna intitolato La morte di Satyajit e Shatadanga. Libro di Krishna Ki Jai. Siamo Nishinga Deva, siamo tutti liberati di tutti, non siamo più diffamati. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Thank you. Bhagavan ki jai. Pralama Raj ki jai. Jai. Arrivo. No, non c'è. Buona serata a tutti e a domani mattina alle 6, lo scimmio barco, buonanotte a tutti. E ciao, domani. Buona serata. Buonasera, Bhagavad Gita alle 20. E poi venerdì il libro di Krishna e sabato al centro Vaikuntha. Dal vivo. Finalmente. Non possiamo toccare, però ci possiamo salutare. Arribol. Arribol. Buonanotte, Hare Krishna. Ciao. Buonanotte. Ciao. Allora, come si chiude? Lascia. Per acquistare i libri esclusivi di Manonath Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. Radio Cucina. Ricette vegetariane lette in pochi secondi da Ramananda Das. Buon ascolto e Hare Krishna da Radio Isvara @gmail.com. Nuova ricetta di Ramananda Das qui su Radio Isvara. Vi ricordo che potete scriverci radioishvara@gmail.com. Buon ascolto e Hare Krishna. Oggi prepariamo lo yogurt casalingo, è molto più facile di quello che si pensa, però è indispensabile partire da una certa quantità di yogurt con fermenti lattici vivi. Allora, acquistati in farmacia, si vendono separatamente, di solito in forma liofilizzata, sono poco pratici perché richiedono molto lavoro. Ogni giorno è necessario scolare la massa dei fermenti dallo yogurt, lavarla sotto acqua corrente e immergerla in nuovo latte tiepido, altrimenti i fermenti muoiono. Svolgendo questo lavoro ogni giorno, la massa dei fermenti cresce e richiede una quantità sempre maggiore di latte per sopravvivere 24 ore, altrimenti è necessario eliminare una parte della massa per mantenere la quantità costante. Lo yogurt ottenuto giornalmente, dopo essere stato filtrato, si conserva in frigorifero per qualche giorno. Con questo metodo, però, lo yogurt viene consumato senza i fermenti lattici, che restano sempre separati. Perciò il valore terapeutico si riduce quasi a zero. In realtà, il vantaggio di preparare lo yogurt con il sistema della cultura separata di fermenti lattici consiste nell'avere del latte predigerito dai fermenti. Lo yogurt preparato con yogurt fresco omogenizzato contenente fermenti lattici vivi. Quando invece si usa dello yogurt omogenizzato contenente fermenti lattici vivi, anche il risultato finale contiene i benefici microorganismi che vanno a ristabilire la flora batterica intestinale e a ringiovanire l'organismo. Inoltre non è necessario fare lo yogurt tutti i giorni, ma soltanto una volta alla settimana, perché i fermenti omogenizzati nello yogurt resistono meglio. Infine, come vedrete, il lavoro necessario in questo caso non è molto. Per ottenere un litro abbondante di yogurt, procuratevi un litro di latte intero pastorizzato, lievitato e scaldatelo leggermente. La temperatura è molto importante perché il calore eccessivo uccide i fermenti lattici, mentre se il latte non è abbastanza caldo non viene stimolata la loro crescita. Per stabilire la temperatura giusta toccate il latte, deve essere abbastanza caldo ma non tanto da non poterci tenere dentro un dito per almeno 10 secondi. Un altro sistema consiste nel portare il latte a bollore e poi lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente per mezz'ora. Quando il latte è alla giusta temperatura, circa 45 gradi, versatelo in un contenitore che non sia di alluminio e aggiungete un vasetto di yogurt fresco al naturale con fermenti lattici vivi. Mescolate bene, coprite e sistemate il contenitore in una posizione stabile dove non ci siano vibrazioni, quindi evitate di mettere il contenitore sopra il frigorifero o la lavatrice o correnti d'aria fredda. Una buona soluzione è quella di mettere il contenitore sopra un calorifero d'inverno oppure nel forno con la fiamma pilota accesa oppure sopra il forno mentre si cuoce qualcosa a bassa temperatura. Non spostate il contenitore, non apritelo, non mescolate, toccate il contenuto finché lo yogurt non sia addensato. A seconda della temperatura ambiente saranno necessarie dalle 3 alle 12 ore di tempo. A questo punto lo yogurt è pronto. Se avete bisogno di una quantità maggiore per fare del formaggio di yogurt o dello yogurt condensato, potete già usarlo per farne dell'altro, sempre mantenendo la proporzione di una parte di yogurt per 10 parti circa di latte. Conservatelo in frigo, tenendo presente che dopo essere stato in frigorifero per almeno un'ora si addensa ulteriormente. Questa è Radio Isvara. La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti, nella parte prima, al capitolo intitolato Un residente di Vrindavana. Viaggiare diventava difficile. Abai voleva prendere il treno del mattino per Delhi e, non avendo un luogo dove stare, voleva tornare a Vrindavana la sera stessa. Ciò gli faceva perdere molto tempo ed era troppo dispendioso. Dapprima egli si fermò da Mr. Gupta, un uomo pio che studiava regolarmente la Gita e offriva ai sadhu un luogo dove stare. Abai aveva parlato a Mr. Gupta del suo Back to Godhead e del suo desiderio di predicare in Occidente. Questa era stata una buona sistemazione e Abai aveva portato con sé i suoi scritti, ma con il tempo un altro sadhu aveva occupato la stanza. Anche se riduceva al minimo le sue spese personali, non era facile accumulare donazioni sufficienti per i viaggi, le spese di stampa e le spese postali. Vendere le copie del Back to Godhead non era difficile ed egli si dedicava a questo compito a Vrindavana. Tuttavia, lavora da solo. Scrivere, stampare, vendere e sollecitare donazioni era troppo. Lo stampatore, Mr. Jain, era stupefatto e si domandava perché una persona scegliesse di affrontare tante difficoltà stampando un giornale che non poteva permettersi. Srila Prabhupada racconta: lavoravo al Back to Godhead giorno e notte. All'inizio, quando ero capofamiglia, non mi curavo se qualcuno pagava o non pagava. Ero solito distribuirlo generosamente. Quando però lasciai la vita di famiglia e andai a vivere da solo, talvolta a Vrindavana e talvolta a Delhi, o talvolta viaggiando per affrettare l'uscita del Back to Godhead, i giorni diventavano duri. Dopo la 12ª edizione quindicinale consecutiva, il numero del 20 novembre del 1956, Abai aveva esaurito il denaro. Mr. Jain lo aveva abbandonato dicendo che non poteva permettersi di stampare per semplice amicizia. Abai allora tornò a Vrindavana, dove occupò il suo tempo a scrivere, ma senza fare progetti per la pubblicazione. Era perché gli uomini non avevano il desiderio di diventare coscienti di Krishna, perché non avevano tempo, che il Back to Godhead era finanziariamente fallito. Alcuni sadhu in India erano famosi e influenti, ma Abai non era tra quelli. Naturalmente la predica che aveva appreso dal suo maestro spirituale, quella che non scendeva compromessi, la tecnica tagliente di criticare apertamente uomini politici riveriti e uomini santi, non era adatta per fargli ottenere favore e protezione. Non ingannare, aveva detto Bhaktisiddhanta Sarasvati. Di sempre la verità, e se Krishna è contento, allora tu otterrai il successo. Il denaro verrà. Abai aveva una fede ferma su questo punto. Questa era la sua risorsa preeminente, la fede nel suo maestro spirituale. Era sicuro che seguendo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati egli avrebbe ricevuto le sue benedizioni e quelle di Sri Chaitanya. Benché negli ultimi 2 anni avesse seguito qualunque strada si fosse aperta dinanzi a lui, per quanto lontano potesse portarlo, egli era rimasto fisso su un obiettivo, quello di esaudire l'ordine di Bhaktisiddhanta Sarasvati. Aveva fiducia. Presto o tardi avrebbe ottenuto il sostegno necessario, avrebbe trovato ascoltatori affini a lui e uomini sinceri si sarebbero uniti per cooperare alla sua opera. A Vrindavana, Abai, ricevette una lettera del suo discepolo, Acharya Prabhakar Mishra, e ciò fece nascere in Abai un'idea. Acharya Prabhakar, che a Bombay lavorava come segretario del Dipartimento di Sanscrito al Bharatiya Vidya Bhavan, invitava Srila Bhaktivedanta Prabhu a unirsi a lui nella predica, proprio come ai vecchi tempi. Il fondatore e direttore del Bharatiya Vidya Bhavan era il governatore K.M. Munshi, lo stesso governatore la cui moglie aveva fatto pressione su Abai affinché abbandonasse il Radha Memorial di Jhansi. Poiché recentemente aveva stretto amicizia con il governatore, Acharya Prabhakar rivelò ad Abai che il governatore lo avrebbe volentieri aiutato. Così, nel gennaio del 1957, dopo aver assicurato a Mahant Gopal che sarebbe tornato e che avrebbe pagato le 5 rupie al mese per stanza, Abai partì per Bombay. Acharya Prabhakar portò Abai ai quartieri di residenza della facoltà e lo introdusse ai vari studiosi ed esponenti della religione. Essi poi assistettero a una conferenza del governatore Munshi sul tema «Che cosa c'è di sbagliato nel mondo?». In seguito Abai avvicinò il governatore esprimendo il suo apprezzamento per il discorso, ma rilevando l'esigenza di un movimento spirituale capace di allontanare le calamità che minacciavano il globo. Senza coscienza di Krishna, anche l'opera di Mr. Munshi al Bharatiya Vidya Bhavan sarebbe stata solo una perdita di tempo. Abai dichiarò il suo interesse per far rivivere la Lega dei Devoti e suggerì che avrebbe potuto lavorare all'interno del Bharatiya Vidya Bhavan per infondere la vita della coscienza di Krishna nei progetti culturali del governatore. Il governatore rispose offrendo ad Abai il posto di professore onorario della Bhagavad Gita. Abai accettò e consegnò al governatore alcune copie del Back to Godhead, pregandolo di leggerle nei suoi momenti di tempo libero. Quale professore onorario della Bhagavad Gita, Abai cominciava ogni lezione con un kirtan Hare Krishna e poi dava spiegazioni sulla Gita, presentando Krishna come Dio, la persona suprema. Ma presto trovò che la sua posizione era limitata. Al Bharatiya Vidya Bhavan trovò che l'opportunità di far rivivere la Lega dei Devoti era troppo ridotta. In seguito, insieme con gli altri membri della Bharatiya Vidya Bhavan, Abai presenziò alla 5ª riunione annuale dell'Accademia Mondiale di Sanscrito a Kurukshetra, dove 5.000 anni prima Krishna aveva esposto la Bhagavad Gita. Il presidente dell'India, dottor Rajendra Prasad, il governatore Munshi e molti altri studiosi e pandita venuti da ogni parte dell'India parteciparono ai discorsi. Tuttavia, là ognuno aveva le sue cose da dire, indipendentemente dalle conclusioni di Sri Krishna. Perciò Abai considerò l'incontro una perdita di tempo, poiché non era in lista per parlare, poiché le discussioni non devozionali sulla Gita lo disturbavano e poiché si era accorto che niente di pratico sarebbe emerso da quell'incontro basato su teorie, lasciò Kurukshetra e tornò a Vrindavana. Acharya Prabhakar presto raggiunse Abai e si parlarono nella stanza di Abai al tempio di Vamsi Gopalaji e Abai gli espresse il suo desiderio di far rivivere la Lega dei Devoti. Dopo aver recentemente assistito ai programmi culturali annacquati a Bombay e a Kurukshetra, sentì in modo ancora più pungente il bisogno di una società di puri devoti. Esistevano già tante organizzazioni culturali e religiose, se voleva poteva unirsi a una di quelle. Ma dov'era quella organizzazione alla quale avrebbe potuto unirsi con la piena partecipazione del cuore? Solo la Lega dei Devoti esponeva le conclusioni di Sri Chaitanya e dei Bhaktisiddhanta Sarasvati. Una predica vigorosa, una predica a livello mondiale del servizio devozionale a Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema. Abai abbozzò un appello al pubblico, generoso, ai filosofi moderni, ai capi e agli uomini di religione, in nome della Lega dei Devoti. L'attività della Lega, egli affermò, doveva consistere nel pubblicare il Back to God in inglese, con traduzioni in molte altre lingue, per addestrare uomini e donne giovani a predicare in tutto il mondo e per far funzionare una macchina da stampa al solo fine di pubblicare letteratura trascendentale. Poiché questi programmi avrebbero richiesto un preventivo di 3.000 rupie al mese, Abai faceva un appello per essere aiutato. Abai concludeva: Vrindavana è il luogo sacro di primaria importanza e per questa ragione il quartiere generale della Lega è situato qui. Usando i titoli solenni di professore onorario della Gita al Bharatiya Vidya Bhavan e di segretario onorario di Hari Bhavan, Abai, con l'assistenza di Acharya Prabhakar, iniziò un altro tentativo mirante a raccogliere un sostegno per il Back to God e per la Lega dei Devoti. Dopo pochi giorni, Acharya Prabhakar tornò al suo posto di Bombay e Abai era di nuovo solo a Vrindavana. Egli amava Vrindavana, ma senza mezzi per pubblicare o predicare, non era contento là. Se avesse potuto viaggiare, forse sarebbe stato in grado di impegnare membri per la Lega. Abai pensava a Kanpur, che era vicina, una città di oltre 100 grosse fabbriche e molti ricchi industriali. Tra questi alcuni egli li aveva già conosciuti nel corso dei suoi viaggi di affari. Decise di andare a Kanpur. Dopo aver stampato alcuni moduli per i membri della Lega dei Devoti, Abai spiegò a Mahant Gopal che se ne andava per un paio di mesi. Mahant era sorpreso. Benché molti anziani sadhu che erano venuti a Vrindavana vi risiedessero stabilmente e alcuni avessero fatto il voto di non lasciare quella dimora, questo tranquillo Babu andava e veniva continuamente. Abai predicò attivamente a Kanpur, dimorando in differenti case e cercando di promuovere iscrizioni per la Lega dei Devoti. Come ospite della Anandeshwar Satsang Mandal, tenne lezioni regolari al Parmat Gata, in luogo di bagno sul Gange. In particolare fece conoscenze tra gli industriali e gli educatori e spesso sedeva e conversava con loro per ore. Molti restavano colpiti per la sua dedizione e per il suo modo di parlare così pacato. Le donazioni che riceveva però erano piccole. Quando offrì ai ricchi magnati il suo statuto per la funzione di membro, essi generalmente optarono per la forma di membro abbonato. Abai ricevette qualche lettera di apprezzamento, ma dopo 2 mesi se ne andò. Dopo alcuni mesi a Vrindavana, Abai decise di andare a Bombay e di predicare là. Bombay interruppe bruscamente la sua relazione con la soffocante Bharatiya Vidya Bhavan e rinunciò al suo diritto di residenza in quel luogo. Rimanendo una settimana consecutiva nelle case dei diversi benefattori, cercò di suscitare interesse per le sue attività missionarie. Quando un amico di Acharya Prabhakar fece in modo che Abhay parlasse alla popolazione il sabato sera sulla spiaggia di Bombay, Abhay accettò. Seguendo abitudini già stabilite, sedeva su un cuscino e la gente si riuniva, dalle 500 alle 1000 persone sedute in ascolto, mentre egli spiegava la filosofia della Bhagavad Gita. Queste conferenze serali di Abhay furono numerose. Vi erano anche altre opportunità di dare lezioni. Una settimana egli parlò per molte sere al tempio di Vishnu a Bombay. Tuttavia, Abhay voleva fare qualcosa di più. Non voleva limitarsi a dare lezioni occasionali a un uditorio non impegnato. La convinzione di poter predicare fuori dell'India si stava intensificando in lui. Naturalmente, l'idea si era mantenuta per un po' di tempo. Egli l'aveva espressa nelle sue note programmatiche per la Lega dei Devoti, prima delle riunioni al Radha Memorial di Jhansi. Durante gli incontri al Birla Mandir di Delhi e in molte altre occasioni. In modo informale lo aveva esposto centinaia di volte ai conoscenti. Inoltre aveva inserito il suo sogno nei suoi scritti. Era pronto a viaggiare in ogni luogo per adempiere l'ordine di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati di predicare in inglese. In India la popolazione di lingua inglese era scarsa e Abhay continuava a sognare di andare in Occidente. Se poteva viaggiare fino a Bombay, a Delhi, a Kanpur, perché non poteva andare a Londra o a New York? Dove l'inglese era parlato da milioni di persone che non avevano mai ascoltato il messaggio di Sri Chaitanya. Scrivendo a Mr. Ved Prakash, un industriale di Kanpur, Abhay gli espose la sua idea. Sri Chaitanya dice Praniman Upakaraya, cioè per il beneficio di tutti gli esseri viventi. Mentre rendono il primo soccorso nella battaglia, gli uomini della Croce Rossa, benché siano ugualmente ben disposti verso tutti i soldati gravemente feriti, danno la precedenza a quelli maggiormente bisognosi di aiuto. Le persone bisognose di aiuto sono talvolta quelle maggiormente trascurate. Dopo aver ottenuto l'indipendenza, Swaraj, la mentalità predominante era basata su idee made in London. Questa è una lunga storia. Tuttavia, in sintesi, i capi dell'India, in nome del governo secolare, si sono impegnati in tutto ciò che è straniero. Hanno lasciato da parte il tesoro del patrimonio spirituale dell'India e stanno imitando il modo di vivere dei materialisti occidentali. Lasciandosi andare ad atti che sono errori di giudizio, dubbi, carenze e duplicità. La conoscenza vedica dell'India è al di sopra dei difetti sopracitati, che sono dovuti al condizionamento, ma noi indiani attualmente abbiamo trascurato la prodigiosa conoscenza dei Veda. Ciò è dovuto all'uso improprio che se n'è fatto. Questo Vedanta Sutra è presentato in India da persone non autorevoli, appartenenti a campi diversi che sostengono differenti teorie. Ne consegue che gli uomini sono stati sviati. I recenti entusiasmi nazionali dei capi indiani, degli industriali e dei programmatori non concede tempo al desiderio di comprendere il messaggio della Bhagavad Gita. Non puoi compiere atti di umanità senza una guida appropriata. Perciò la mia idea è di predicare nei paesi stranieri. Si basa sul fatto che gli occidentali sono stanchi del progresso materiale della conoscenza e si sono in cerca del messaggio guida del Vedanta Sutra, o almeno di quello della Bhagavad Gita, espresso in modo autentico. Sono sicuro che l'India tornerà alla sua vita spirituale quando i suoi principi saranno accettati dagli europei, dagli americani e dagli altri. Perché ora il popolo indiano ha preso l'abitudine di elemosinare dopo aver trascurato la sua proprietà. Questo era il mio punto di vista, tuttavia dobbiamo tutti ugualmente cogliere soltanto l'opportunità di servire. Un mezzo per espandere il suo modo di predicare era la spedizione di copie del Back to Godhead fuori dell'India, come incentivo per chi accettava di fare donazioni. Abai rendeva noto che il nome del donatore sarebbe stato stampato su ogni copia. La sua ambizione consisteva nel far entrare grosse donazioni, estendere ampiamente le tirature della stampa e spedire il Back to Godhead a più di 50 paesi. Egli assegnò delle quote. L'America avrebbe ricevuto 10.000 copie, l'Argentina 500, il Belgio 500, il Brasile 500, la Birmania 1.000.000, il Canada 500, il Cile 500, la Cina 10.000 e così via, incluse 10.000 copie per la Russia e 10.000 per l'Inghilterra. I donatori e le donazioni però non apparivano e i progetti per il Back to God non si realizzavano. Abai trovava che sebbene la popolazione dell'India fosse educata, la classe colta stava rifiutando la propria cultura spirituale e le masse, inclini alla religiosità, erano ingannate da un apparato di dottrine in conflitto tra loro e non autorevoli, presentate in nome dell'induismo. Un esempio allarmante di ciò si presentò alla sua attenzione mentre egli stava predicando a Bombay durante l'estate del 1958, Bhagwat Week. Era una rivista pubblicizzata da un gruppo di persone i cui insegnamenti si opponevano alla pura presentazione parampara del Bhagavata. Il Bhagavata, lo Srimad Bhagavatam, era la scrittura devozionale per eccellenza, l'incarnazione letteraria di Krishna. Eppure, gli organizzatori del Bhagwat Week si servivano dello Srimad Bhagavatam per insegnare l'impersonalismo e minimizzare l'importanza di Krishna. Attraverso amici, Abai venne a sapere di riunioni indegne e infine il 28 luglio del 1958 scrisse al capo della Bhagwat Week, Sri Ratanshi, implorandolo di star lontano dallo Srimad Bhagavatam. Desidero informarvi che ho ricevuto la vostra lettera di invito a esaminare Bhagwat Week per mezzo del segretario del centro spirituale di Bombay. Poiché so che genere di Bhagwat Week può essere esaminata dai Mayavadi allo scopo di sviare il pubblico innocente, non solo mi asterrò dallo svolgere questa funzione, ma suggerirò anche a molti altri di guardarsi bene dall'occuparsene per la ragione che il santo Bhagwat è recitato da uomini che non possono accedere a questa grande scrittura, scrittura di cui solo le persone liberate, scevre di ogni pretesa religiosità, si possono occupare. Alcuni amici che sono intervenuti al vostro Bhagwat Week mi hanno riferito che i divertimenti di Krishna erano stati erroneamente interpretati nella vostra organizzazione, con il pretesto di voler salvare Krishna dal sembrare una personalità immorale. Per salvare questo sciocco uditorio, Maharaj Parikshit aveva già chiesto a Shripad Sukadeva Goswami di rendere chiare le attività del Rasalila del Signore, Sri Krishna. La natura trascendentale del Rasalila non richiede di essere giustificata da alcun mayavadi o moralista di questo mondo. La lila è ciò che è. Nello sloka numero 30 è proibito a un materialista di indulgere all'ascolto della Rasalila o di ascoltare la Rasalila da un materialista. Nella tua organizzazione sia l'uditorio che i conferenzieri sono materialisti e il fatto che essi indulgano alla rasa lila per mera stupidità si risolve in un'imitazione di Rudra che ingoiò un oceano di veleno. Abai avvertì che un'azione legale poteva essere intrapresa contro questa frode religiosa, ma Bhagwat Week continuò e centinaia le persone furono ingannate. Mentre coloro che si professavano seguaci della cultura vedica venivano frustrati nella loro lealtà, i moderni indiani occidentalizzati rifiutavano la cultura vedica considerandola retrograda e irrilevante. Il primo ministro Nehru non era affatto incline alla spiritualità, era favorevole a una modernizzazione e a quelle che Abai definiva idee made in London. Almeno Mahatma Gandhi, sebbene non avesse risposto alla lettera che Abai gli aveva scritto, era incline alla spiritualità, ma non era così per il suo successore, Pandit Nehru. Nonostante ciò, preoccupato che i leader indiani rifiutassero il patrimonio spirituale del loro paese, Abai decise di scrivere a Pandit Nehru. Sebbene a Bombay Abai fosse praticamente senza casa, nell'agosto del 1958 scrisse arditamente al primo ministro per esprimergli la sua convinzione che la cultura spirituale dell'India non soltanto doveva essere vivificata in patria, ma doveva essere anche distribuita in Occidente. Abai ricordò a Pandit Nehru che dai tempi della Grecia fino all'era atomica dell'Occidente non aveva visto che materialismo e per questa ragione non aveva conosciuto la pace. Se Nehru avesse continuato a seguire la via del materialismo, i soli risultati sarebbero stati il conflitto e la guerra. L'India perciò non doveva sprecare il suo tempo imitando il modo di vivere degli occidentali. Tu hai ammesso che la posizione della cultura indiana è di ordine più elevato, ma contemporaneamente vuoi introdurre la prosperità materiale con il progresso scientifico della conoscenza. Ma che cos'è la conoscenza scientifica? Anche lo spiritualismo è conoscenza scientifica avanzata. Il progresso materiale della conoscenza scientifica non può dare nemmeno la prosperità materiale alla massa. Pensi che un carro senza cavalli o le comunicazioni telefoniche o via radio o qualsiasi altra facilitazione di esistenza possa essere fonte di prosperità materiale? No, non può. Prosperità materiale significa che la gente deve aver cibo sufficiente e poter mantenere il corpo sano. Pensi che i tuoi differenti progetti abbiano introdotto la prosperità materiale o che la moderna civiltà occidentale possa introdurre questa prosperità? Anche se essa potrà produrre qualche facilitazione materiale, l'inquietudine continuerà finché non ci sarà la soddisfazione spirituale dell'esistenza. Questo è il segreto della pace. Pur senza essere stato in Occidente, Abai esprimeva la sua convinzione che gli americani e anche i russi stavano cercando di la realizzazione spirituale. Non potevano essere soddisfatti del solo progresso materiale. Pandit Nehru perciò doveva aiutare i suoi amici dell'Occidente offrendo loro la conoscenza spirituale dell'India. Povertà significa povertà di conoscenza. Il primo ministro Chanakya era solito vivere in una capanna di paglia, ma era il dittatore dell'India al tempio di Chandragupta. Mahatma Gandhi aveva accettato spontaneamente il modo di vivere dei cosiddetti poveri, ma era il dittatore del destino indiano. Era caduto in miseria? Egli era glorioso, orgoglioso della sua conoscenza spirituale. Perciò è la conoscenza spirituale che rende un uomo veramente ricco, non la radio o il motocarro e il resto. Nel trascorso 1930 la famiglia di Nehru aveva acquistato le medicine presso la farmacia Prayag e Abai ora si appellava a Pandit Nehru come a un vecchio amico di Allahabad, proprio come l'aveva chiesto a Mahatma Gandhi, così chiese a Nehru di lasciare le sue responsabilità politiche. Come famoso gentleman del mondo, impegna il resto della tua vita in questo movimento spirituale, organizzato per produrre una vera rettifica della scienza materiale dell'Occidente, combinandola con il metodo della realizzazione spirituale dell'India. Come la lettera inviata a Gandhi, anche la sua lettera a Nehru rimase senza risposta. Tra gli antichi contatti stabiliti a Bombay vi era Mr. Arbanshala, un proprietario terriero che una volta gli aveva assicurato che avrebbe provveduto al suo alloggio, qualora ne avesse avuto bisogno. Nell'estate del 1958 Abai si recò da Mr. Arbanshala, ma scoprì soltanto che era andato in Occidente. Thank you. Quando Abai apprese che stava viaggiando non solo per affari, ma per una missione di carattere culturale, l'immaginazione di Abai si impadronì dell'idea di un indiano in missione culturale in Occidente. Scrisse a Mr. Arbanslal chiedendogli un posto dove risiedere, ma gli presentò anche la sua missione culturale. Abai sapeva che molti occidentali rispettano la cultura indiana. Aveva sentito dire da un suo confratello tedesco che sebbene gli indiani che si recano in Occidente, soprattutto in Germania, fossero ben accolti, venivano talvolta messi alla prova sulla conoscenza della cultura indiana. Così Abai suggerì a Mr. Arbanslal di insegnare la vera conclusione della cultura indiana mentre viaggiava. Io penso che gli uomini abbiano bisogno del messaggio indiano in quest'ora di necessità in cui la bomba atomica è sospesa sul capo della società umana. Per favore, comincia quindi ad agire per il bene di tutti nei paesi stranieri finché non sarai tornato qui. Chiaramente Abai avrebbe voluto andare là di persona. Abai ricordò a Mr. Arbanslal la sua promessa di fornirgli un appartamento. «Sto passando i miei giorni a Bombay in grande disagio per mancanza di un posto adatto in cui risiedere». La lettera però non raggiunse Mr. Arbanslal in viaggio. Poiché voleva andare in Occidente il più presto possibile, Abai visitò uno dei suoi confratelli di Bombay, Kripa Sindhu, e gli chiese aiuto. Kripa Sindhu racconta: «Venne a casa mia e mi chiese di aiutarlo ad andare in America. Mi consegnò alcuni bag to Godet che, come mi disse, avrei potuto mostrare alla gente per chiedere un aiuto a suo nome. Cercai di fare qualcosa a questo proposito, introdussi Abai Babu a un uomo, un grosso industriale, Emraj Kandendwala. Vi andai anch'io, ci sedemmo e io spiegai a quella persona che Abai voleva andare in America e che era un grande devoto e stava scrivendo e facendo molte cose. Tuttavia il signore in questione non lo aiutò». Kripa Sindhu riferì ad Abai che talvolta la Gaudiya Mad di Bombay aveva ricevuto assistenza da un grosso magnate, una donna d'affari, la signora Sumati Morarji, capo della Scindia Steamship Lines. Abai cercò di vedere quella signora, ma non riuscì nell'intento. Poté vedere invece uno degli impiegati di Mr. Morarji, un delegato alla gestione della Scindia Company, il quale lo ascoltò e con sorpresa di Abai rispose con generosità. Considerando Abai un vero sadhu, l'agente della Scindia gli offrì una concessione del 50% sul viaggio dell'India, dall'India per gli Stati Uniti, e glielo garantì con uno scritto. Abai immediatamente cominciò a preparare il passaporto e il visto consolare, tuttavia non riuscì a collettare la metà della tariffa. Nel 1956 a Delhi aveva lottato ed era senza casa e ora, considerando gli ultimi 2 anni di viaggi fuori di Vrindavana, sentì che la sua posizione non era affatto migliorata. Forse Krishna non voleva il suo successo su questa strada. L'unica cosa positiva che aveva raggiunto era la determinazione di andare in Occidente a predicare. Là certamente avrebbe incontrato il successo. Solo e povero Abai tornò a Vrindavana. Aveva 62 anni, ma non pensava di ritirarsi. Più che mai, il suo stato d'animo era meditativo e incline alla rinuncia. Poiché conosceva poca gente e voleva scrivere, restò con se stesso. Come residente di Vrindavana godeva di una profonda pace. Fuori dalla sua finestra il fiume Yamuna scorreva in un panorama sereno destinato alla sua udienza privata. I dintorni di Kashigata erano quieti, benché prima dell'alba potesse udire alcuni devoti che facevano il bagno e cantavano. Quando la luna era piena, il fiume sembrava una fresca gemma risplendente. Il mattino il sole appariva simile a un fuoco rosso, un fuoco che ardeva attraverso una parete opaca e improvvisamente sorgeva schiarendo l'intera volta celeste, finché nel caldo splendore del mezzogiorno, mentre la stanza era in ombra, Abai poteva vedere dalla sua finestra un sole smagliante, alto nel cielo, che scintillava sul nastro argenteo del nobile fiume. Senza nemmeno lasciare la sua stanza, dalla sua porta Abai vedeva centinaia di templi raggruppati insieme per miglia nell'amichevole città di Vrindavana. I vari e puntuali kirtan e il suono delle campane nei templi, i canti spontanei per Sri Krishna in numerose case e nelle vie salivano e riempivano l'aria di devozione. Sulla veranda Abai poteva cantare il japa e non vi sarebbero state interruzioni. Egli godeva di una vita semplice che minimizzava i bisogni del corpo ed era quasi libera da ogni preoccupazione. Poche ore di riposo la notte, un leggero prasadam a mezzogiorno, le vesti più semplici. Inoltre, egli non doveva adulare né sostenere qualcuno o amministrare la vita di qualcuno. La sua mente e la sua intelligenza erano libere ed egli era rimasto costantemente fisso sul servizio per il suo maestro spirituale. Considerò le circostanze del momento, una preparazione per un compito più grande che lo attendeva. Nonostante la sua età avanzata, sentiva di aver appena dato inizio alla sua opera, ma si sentiva fiducioso. Aveva la sua visione di un'associazione mondiale di devoti. Non era un sogno futile, benché non avesse certezza del modo in cui tutto si sarebbe concretizzato. Tuttavia conosceva il suo dovere. Per il presente avrebbe continuato a descrivere in articoli e libri la sua visione, la visione dei maestri spirituali che l'avevano preceduto, ma appena possibile sarebbe andato in Occidente. Gli occidentali, egli concludeva, non erano soddisfatti di una vita materialmente confortevole, priva di comprensione spirituale. Più dei suoi conterranei, essi erano aperti al messaggio della verità assoluta. Sapeva che sarebbe andato e voleva andare, se Krishna lo desiderava. Abai visse frugalmente a Vrindavana, tenendo il conto esatto di ogni spesa e di ogni introito. Con cura teneva un registro come se stesse trattando un importante affare, sebbene i suoi acquisti si limitassero a un po' di latte, a poche verdure, al carbone per cucinare e alle tariffe dell'autobus. La sua spesa maggiore era la posta. Abai compose una poesia in bengali. Vrindavana Bhajana. Le strofe di apertura in particolare erano introspettive e personali. Vivo in solitudine a Vrindavana Dhama e così ho molte realizzazioni. Ho moglie, figli, figlie, nipoti, ogni cosa. Ma senza denaro ogni cosa è gloria senza frutto. Krishna mi ha mostrato la nuda forma della natura materiale. Con la sua forza ha reso tutto senza sapore per me. Yasyaham anugrihannami arisye tad danam sanai. A poco ogni cosa sottraggo a coloro a cui do la mia misericordia. Come potevo capire la misericordia di colui che ogni misericordia racchiude? ognuno mi ha lasciato vedendomi senza quattrini. Moglie, parenti, amici, fratelli, ognuno. Questa è miseria, ma in me provoca il riso. Siedo da solo e rido. In questo samsara di Maya chi amo veramente? Dove andarono il padre amoroso e la madre? Dove sono tutti gli anziani che erano la mia vera famiglia? Chi me ne darà notizie, dimmi? Tutto ciò che resta di questa famiglia è un elenco di nomi. Il samsara di Maya è come schiuma che si mischia di nuovo nelle onde del mare. Nessuno è padre, madre o parente. Come schiuma non durano che per un breve istante, e come la schiuma di nuovo si dissolve nel mare. Il corpo, fatto di 5 elementi, è distrutto. Quanti corpi l'anima ha rivestito in tal modo? I parenti sono legati solo al corpo materiale. Fratello per lo spirito, ognuno è parente. Relazione non tinta dal profumo di Maya. Il Signore Supremo è l'anima di ognuno. In relazione a Lui, ognuno nell'universo è lo stesso. Tutti parenti, fratello. Miliardi di jiva. In relazione a Krishna, tutti sono in completa armonia. Dimenticando Krishna, l'anima anela al piacere dei sensi. Per conseguenza, è saldamente afferrata da Maya. Durante una visita a Delhi nel mese di ottobre, Abai ricevette una donazione di Kaviraj Baidyanath Sirkar affinché se ne servisse per stampare un migliaio di copie del Back to Godhead. Abai prontamente produsse il 20 ottobre l'uscita del Back to Godhead, sulla cui prima pagina compariva il nome del donatore. Era il primo numero in 2 anni. Un altro donatore, Mr. Subodh Kumar Kapoor di Ramalal Kapoor e figli, seguì l'esempio di Mr. Sirkar e donò 1000 copie per il numero del 20 novembre. L'articolo di prima pagina del numero di novembre portava il titolo Verità e bellezza. L'articolo di fondo del The Times of India, speculando sulla possibilità che la verità e la bellezza fossero compatibili, aveva pensato che la verità non sempre si identificava con ciò che è bello, ma piuttosto con ciò che è brutto e spiacevole. Abai espresse il suo disaccordo. La verità è così bella che molti saggi, santi e devoti hanno abbandonato ogni cosa in nome della verità. Ma da tempo immemorabile noi siamo abituati ad amare la falsità invece della verità. Abai, tuttavia, era d'accordo sul fatto che a livello materiale la verità e la bellezza sono incompatibili. Non soltanto la verità del mondo materiale non era bella, ma non era verità. La bellezza terrena non è vera bellezza, e per maggior chiarezza Abai narrò una storia. Una volta un uomo si era innamorato di una bella ragazza, ma lei resisteva alle sue profferte d'amore. In seguito all'insistenza dell'uomo, la ragazza gli chiese di aspettare 7 giorni, trascorsi i quali lei lo avrebbe accettato. Nei 7 giorni successivi la ragazza si servì di forti purghe lassativi che la costrinsero ad evacuare, a vomitare ripetutamente. Poi conservò quei rifiuti in un secchio. In questo modo la presunta bella ragazza diventò smunta e magra come uno scheletro. La sua carnagione si scurì e i suoi globi oculari si spingevano fuori dalle orbite. L'uomo apparve sulla scena ben vestito e garbatamente chiese alla giovane in attesa, la cui apparenza era sconfortante, di poter incontrare la bella ragazza che lo aveva chiamato. L'uomo non riusciva a riconoscere nella persona che l'aspettava la medesima ragazza che egli stava cercando. Questa stessa ragazza era in condizioni pietose e quello sciocco, nonostante le ripetute assicurazioni, non poteva riconoscerla. Ciò era dovuto soltanto all'effetto delle medicine. Alla fine la ragazza narrò a quell'uomo vigoroso tutta la storia, spiegando come si fosse separata dagli ingredienti della sua bellezza e aggiungendo che aveva conservato questi ingredienti e se voleva poteva godere di quei succhi. Quel mondano e lunatico poeta fu d'accordo nel vedere i succhi della bellezza e seguì la ragazza che lo dirigeva verso il deposito di escrementi e vomito dissolti ed emananti un odore insopportabile. In questo modo fu rivelata a quell'uomo l'intera storia della bellezza. Abai proseguiva affermando che se la letteratura non descrive la verità e la bellezza suprema della persona sovrana, non è migliore di escrementi e vomito, anche se viene presentata come poesia e filosofia. Nel suo scritto Il livello della moralità, Abai spiegava che la moralità è il livello di attività che soddisfa l'autorità suprema. Le scritture contengono codici morali che proibiscono le relazioni sessuali illecite, l'assassinio degli animali, l'uso di sostanze intossicanti e il gioco d'azzardo. Egli attribuiva il successo di Mahatma Gandhi come capo politico al fatto che egli osservava questi principi morali. Abai elogiava anche il principio vedico del matrimonio. Dopo la pubertà una donna desidera un uomo e se non si sposa al momento richiesto e se le viene concesso di frequentare i ragazzi, è abbastanza naturale che si presenti la possibilità di una caduta, sia da parte del ragazzo che della ragazza. Nonostante il cambiamento delle condizioni sociali, Abai argomentava: non puoi indulgere alla relazione illecita con il sesso opposto solo perché le condizioni sociali sono cambiate. Infatti, la relazione illecita con donne è l'inizio di ogni immoralità. In Studiosi delusi, Abai presentava una revisione critica dell'edizione della Bhagavad Gita di Radhakrishnan, citando in particolare il 34esimo verso del 9° capitolo, dove Sri Krishna dichiara che si dovrebbe pensare sempre a lui e diventare suo devoto. Il dottor Radhakrishnan aveva commentato: non è alla persona di Krishna che dobbiamo abbandonarci totalmente, ma al non nato, all'eterno senza inizio, che parla attraverso Krishna. Benché il significato ovvio della Bhagavad Gita sia quello che ci si deve arrendere a Krishna, la persona suprema, impersonalisti quali Radhakrishnan ne oscurano il significato con i loro giochi di parole. Il giorno della scomparsa di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Abai aveva provato un acuto sentimento di separazione dal suo maestro spirituale. Egli aveva perfettamente capito che le istruzioni di Srila Bhaktisiddhanta erano più importanti della sua presenza fisica e che, in realtà, il maestro spirituale era presente nelle sue istruzioni. Così Abai era sempre rimasto con il suo maestro spirituale. Eppure, in quella ricorrenza annuale, non poteva evitare di sentirne la mancanza. Ricordava il 1932, anno in cui, ancora griasta, era diventato discepolo. A quel tempo non era libero di compiere tanto servizio come ora, eppure in quegli anni egli aveva potuto vedere il suo maestro spirituale. Aveva potuto fargli personalmente gli omaggi, mangiare i resti del suo prasadam, camminare accanto a lui, udire la sua voce e ricevere il suo personale sguardo. Abai pensava ai momenti trascorsi in sua compagnia. Come era stata potente la missione di Srila Bhaktisiddhanta. Le sue macchine da stampa funzionavano giorno e notte e stampavano riviste, libri e il quotidiano Nadia Prakasa. L'Europa era stata un promettente nuovo campo di predica. Con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati al timone, la Gaudiya Math era entrata nella battaglia contro le forze di Maya e Srila Bhaktisiddhanta aveva reso intrepidi tutti i suoi discepoli. Abai era sempre stato ansioso di servire il suo maestro spirituale, di servire all'interno della Gaudiya Math grazie al quartier generale di Calcutta. Tuttavia, finché non aveva ricevuto l'ultima lettera di Srila Bhaktisiddhanta, non gli era mai stato esattamente chiaro come avrebbe potuto servire. Abai ripensava ai 20 anni e più trascorsi dopo la scomparsa del suo maestro spirituale. La Gaudiya Math era stata rovinata dai suoi capi e tutti si erano sparpagliati come foglie in una tempesta. Era una perdita che non può essere espressa a parole, era una vecchia storia. Come i grossi sannyasi avevano trascurato le istruzioni del loro maestro spirituale, avevano intrigato, discusso, litigato. Violente fazioni di partito, falsi capi, sostenevano di essere acciarie del mondo. E quale fazione aveva ragione? No, entrambe avevano torto, torto marcio, perché la Gaudiya Math si era disintegrata. Ora vi erano dozzine di piccoli mata e mancava la predica, la vera predica di quei tempi, quando lui, lo Shima Guru, incuteva paura tra i Mayavadi e guidava un esercito di giovani e potenti predicatori che viaggiassero per tutta l'India e nel mondo. E chi soffriva maggiormente della distruzione della Gaudiya Math era la gente, i non devoti, che avevano ben poche speranze di liberarsi dagli assalti di Maya. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva dato inizio a una rivoluzione spirituale, ma quella rivoluzione era ora demolita da Maya. Le particelle disperse della Gaudiya Math si erano stabilite in unità insulari, soddisfatte in se stesse, quasi impotenti. E questo era ciò di cui la gente in generale doveva soffrire. Abai inseguiva il ricordo del suo maestro spirituale, egli era sicuro del fatto che la sua relazione con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era intatta. Continuava, eppure si sentiva privo di aiuto. Stava adempiendo diligentemente l'ordine del suo maestro spirituale di predicare in lingua inglese, eppure senza la sua presenza fisica si sentiva piccolo e molto solo. In queste circostanze metteva in dubbio che fosse saggia la decisione di aver lasciato la famiglia e gli affari. E anche per oggi il nostro tempo scade e ci fermiamo qui nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna. La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. State ascoltando Radio Isvara. Want to know about nature and the field and its knower and of knowledge and of its end. Krishna said to Arjuna that this body's the field. Happy, just serve Krishna forever.